Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Ma come siamo fortunati ad iniziare la giornata insieme. Buongiorno, eccomi qui. Sono felice di condividere con voi ogni giorno questo momento magico della giornata, perché siamo pronti per affrontare un nuovo giorno, ma ancora un po' sospesi, come se fossimo ancora in camerino, dietro le quinte, nello spogliatoio, prima di iniziare la partita. E dato che tutti noi sappiamo bene per esperienza diretta quanto il modo in cui viviamo questo inizio condizioni l'intera giornata, ho pensato per stamattina di ricorrere al potere delle note e ho scelto un brano che fa parte della mia playlist personale. Io lo ascolto talmente spesso ed è per me così familiare che ho la sensazione di averlo scritto io. È Gratitude, un brano che fa parte dell'album di Apason di Roberto Cacciapaglia. Io lo trovo meraviglioso. E per rendere ancora più speciale questo inizio di giornata, ho pensato di invitare Roberto Cacciapaglia a prendere un caffè con noi, il primo caffè del mattino. Ciao maestro! Ciao Nicoletta, buongiorno! Guarda, è un regalo grande la tua musica, ma di la verità, condividi la scelta Gratitude per iniziare bene la giornata? Che ne pensi? Beh, la gratitudine è la cosa più importante, trovo, proprio per la giornata, cioè che arriva un nuovo giorno della nostra vita, è una cosa meravigliosa, perché a volte non siamo consapevoli di quanto sia meravigliosa la nostra vita e che dono sia, e quindi la gratitudine, devo dire che ci apre al mondo, a noi stessi. È una bella autostrada per partire. È una bella autostrada. Senti maestro, ma com'è nato questo brano? Guarda, il brano è nato in un momento molto particolare. E ti dirò, sull'isola di Stromboli ero sotto il vulcano, non in eruzione, però in questa notte senza nuvole e c'erano gli zampilli, ci sentivo il profumo dell'isola, del mare, diciamo che tutti gli elementi erano presenti. E così mi è scaturito dal profondo questo sentimento di gratitudine, perché dobbiamo sapere che le cose che ci accadono arrivano da noi stessi, dal profondo, e poi si manifestano all'esterno. E quindi così è arrivato questo suono. Sono stato strumento, diciamo così. E il suono bello, è uscito. Bello, magnifico. Senti, è un brano che ascoltarlo proprio ci fa bene, e anche questo il titolo della canzone potrebbe suggerirci una domanda: di che cosa posso essere grato oggi? Bella domanda, penso che sia la scelta, una grande scelta. Ma diciamo, dimmi di che cosa sei grato oggi, alzandoti di primo mattino. Della consapevolezza della mia vita, che voglio la gratitudine a ogni respiro, a ogni momento che passa, voglio essere presente a questa meraviglia, non lasciarla passare così distrattamente, essere ancorato a questo dono continuo. Abbiamo un dono perenne a ogni respiro, e qui sta solo a noi scoprirlo e attaccarci, sì, come un'ancora che ci porta in questo viaggio meraviglioso che è la vita. Grazie al maestro Roberto Cacciapaglia per essere stato con noi. Grazie, buona giornata maestro. Grazie, buona Nicoletta, musica. Buona giornata a tutti, buona eternità, a presto. Gratitudine, strada, occasione, opportunità per iniziare, per ripartire bene. E stavo riflettendo che a suggerirlo non è solo il cuore, perché noi tutti ci sintonizziamo, no, con questo sentimento e sappiamo che ci fa bene, ma a dirlo sono addirittura le neuroscienze che hanno studiato la gratitudine. Ci facciamo raccontare tutto dal professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno, eccomi. Professore, la gratitudine influisce sul nostro cervello, mettendo in moto una serie di reazioni biologiche che producono effetti molto positivi. Questa è in estrema sintesi quello che mette in luce la ricerca, che dicono le neuroscienze, ma ci racconta, professore? Sì, la gratitudine è stata studiata in lungo e in largo nei suoi meccanismi, anche con delle tecniche di neuroimmagine funzionale, e per riprodurre la sensazione della gratitudine è stato detto ai soggetti sottoposti a questa risonanza di immaginare alcune cose dell'Olocausto. È un'esperienza così terrificante, drammatica e mortale, ma durante l'Olocausto si sono distinte anche persone, pensiamo a Schindler e Selis, per una straordinaria magnanimità. Quello che si è visto è che si attiva un'area del cervello esclusivamente umana, che è la corteccia prefrontale nella sua parte interna, e è importante far capire come si scompone la gratitudine da un punto di vista neurobiologico. Per prima cosa, noi dobbiamo comprendere ciò di cui abbiamo goduto, quindi quella parte del cervello è una parte che ci fa decodificare il gesto di cui noi abbiamo beneficiato. La seconda, quella zona del cervello, è anche quella che è in grado di dare una valutazione morale, quindi non solo riconoscere il gesto di cui siamo stati beneficiari, ma anche la portata enorme morale. Terzo, quell'area serve anche per destare in noi il piacere della ricompensa, quindi pensi che meraviglia ciò che viene definito essenzialmente un'emozione morale in termini neuropsicologici desta in noi. Ma non è tutto, perché la gratitudine non è dire grazie, la gratitudine è rendere grazie con il comportamento, ed ecco quindi una area anche di ordine motorio che spiega come mai il rendere grazie, l'essere così una persona che ringrazia nei fatti e non solo nelle parole, è proprio la cifra dell'espressione della gratitudine. Il tutto questo silenziando l'insula, che è un po' la parte che borbotta dentro di noi nella vita vegetativa quando le cose non vanno bene, e che il soggetto che sperimenta gratitudine, il quale dimostra la letteratura, vive più a lungo, sta meglio con la mente, sta meglio col corpo, evidentemente ha anche meno tensioni interiori. Fa bene a noi, professor Barbanti, ma fa bene anche agli altri. Sì, fa bene a noi, fa bene agli altri. L'altra definizione della gratitudine è quella della emozione sociale. Sempre questa zona così cruciale e così esclusiva del cervello dei primati, del cervello umano, che è la corteccia prefrontale nella sua parte mediale, è quella anche importante per la cosiddetta teoria della mente, cioè la capacità di comprendere i propri stati d'animo e di comprendere gli stati d'animo dell'altro anche se sono diversi dal nostro, cosa che nell'animale evidentemente non è possibile. E quello che è stato anche dimostrato da un punto di vista biochimico è che nel corso della gratitudine noi siamo invasi dall'ossitocina, questo ormone, l'ormone dell'abbraccio, l'ormone della vicinanza, per fare in modo che quindi la gratitudine sia un qualcosa poi di operativo, che non rimanga semplicemente come un mio pensiero, ma che mi porti ad essere riconoscente vita natural durante. Evidentemente ci sono tanti tipi di gratitudine, ce n'è una focalizzata, sono grato a una persona, o ce n'è una generalizzata, pensiamo alle persone che abbraccino in senso protagonista una fede, sia questa religiosa, politica e così via. Ma è un'esperienza puramente umana, irripetibile, operativa, che provoca piacere, un piacere di ricompensa in chi la sta provando. Professor Barbani, grazie, grazie per essere stato con noi, le sono grata per questa spiegazione. Ancora una volta, grazie. Buona giornata. E allora, se la gratitudine ci fa bene, se questa, che possiamo definire come una sorta di intelligenza emotiva, ci mette nella condizione adatta per riprendere il passo, allora perché non sfruttare questa opportunità? Tutti noi abbiamo qualcosa di cui essere grati, possiamo trovare in noi, intorno a noi, l'abbiamo, come si dice, a portata di mano. Ed è per questa ragione che abbiamo pensato di farvi una proposta e di lanciarvi un'iniziativa in cui ho coinvolto uno degli scrittori più amati e apprezzati, Andrea Vitali, che è in linea con noi. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Nicoletta. Oh, Andrea, si parte, eh? Intanto ti voglio dire grazie e ti sarei grata se fossi tu a raccontare perché e come si può ripartire dalla gratitudine come un ingrediente un po', no? Per mettere le fondamenta, le basi, per affrontare questo periodo che ci aspetta. Ma guarda, direi che la gratitudine in questi ultimi due mesi è un sentire la vita, è un sentimento che ha riguadagnato molti punti nella graduatoria, diciamo, di tutto, diciamo, il comparto dell'affettività. E quindi abbiamo avuto un sacco di esempi e continuiamo ad avere un sacco di esempi, diciamo, di gratitudine, e quindi sarebbe proprio il caso di mantenerla viva, anche perché questo periodo ci ha permesso di sfoltire molte, diciamo, delle cose che prima ci sembravano assolutamente necessarie, indispensabili al vivere, mentre adesso ci siamo accorti che stiamo vivendo comunque facendo a meno, diciamo, di tutte quelle cose, e vengono fuori piccoli esempi di, diciamo, di gratitudine, al di là di quella che ci dimostrano e che dimostriamo alle persone che aiutiamo. Penso a tutti coloro che portano i farmaci, la spesa a domicilio, che si occupano comunque dell'assistenza agli anziani, eccetera. Ma una gratitudine ancora più universale. Qui non vorrei essere troppo bucolico, ma io mi sento grato, anche perché sono molto fortunato, stante l'ambiente in cui vivo, mi sento grato di rivedere una sorta, diciamo, di luce diversa rispetto a quella di due mesi fa, di vedere un lago assolutamente ritornato padrone di se stesso rispetto a quello di due mesi fa, di sentire quasi in maniera proprio in maniera sensibile una sorta di grazie che mi viene anche dalle piante, dall'erba che cresce nel giardino. Quindi c'è questo sentimento, questo ritorno un po' a una certa primitività che abbiamo dimenticato, ci dovrebbe far sentire un sentimento cosmico di gratitudine. E se siamo grati sorridiamo, Andrea, perché assolutamente sì, la gratitudine è un sentimento, diciamo, che porta a sorriso. Non esiste gratitudine senza sorriso. Allora, noi vogliamo lanciarvi questo invito. Inviateci storie di gratitudine, mica è necessario che siano particolarmente grandi, complesse, vanno bene anche quelle piccole. Andrea, dei mattoncini, un po' come quelli dei Lego. Sì, esattamente. Io l'ho pensata così quando ne abbiamo parlato, proprio quei piccoli mattoncini con cui da bambini costruivamo castelli, diciamo, di fantasia o chissà cos'altro, perché sono questi piccoli mattoncini di gratitudine che hanno mantenuto in piedi la nostra vita in questi ultimi due mesi, e che continueranno, devono essere continuamente presenti nel nostro futuro, per non dimenticare quello che abbiamo passato e naturalmente per non ricadere in ciò che non vorremmo più vivere. Allora, l'idea è questa: se voi ci state, noi ve ne saremo grati. Mandateci delle vostre piccole storie di gratitudine. Potete mandare un messaggio vocale al 335-830-4306, oppure scriverci una frase, una riga, un'idea a obiettivosalute@radio24.it. Noi raccogliamo tutte queste storie, pensieri di gratitudine, e le affidiamo ad Andrea Vitali, che si lascerà ispirare. Perché da gratitudine nasce gratitudine. Quindi vi aspettiamo insieme ad Andrea Vitali per raccogliere tutta questa gratitudine e per ripartire dalla gratitudine per ricostruire il nostro oggi e il nostro domani. Andrea, ti abbraccio e ci sentiamo oggi. Scatenatevi e ci vediamo oggi a mezzogiorno nell'appuntamento video con Andrea Vitali, che così ci scambiamo le prime considerazioni su questa iniziativa. Intanto passate voce. Grazie ad Andrea Vitali per essere stato con noi, a Lorenzo Nespoli in assistenza, a Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi in redazione. Ci sentiamo a mezzogiorno per l'appuntamento con la ricerca e poi subito dopo per i nostri video. Buona giornata.